America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. The US economy is up 3.5% in the third quarter, capping the best six months in over a decade. Newscast televisivo, uno dei tanti. L'America ha un'economia in crescita, terzo trimestre di quest'anno, più 3,5%, dato preliminare. Potrebbe anche aumentare, chissà, comunque un dato che ha colto di sorpresa gli analisti. La borsa ha reagito molto bene, il Dow Jones è aumentato dell'oltre 1%, ci si rende conto che alla fine la crescita economica è solida con o senza quantitative easing della Federal Reserve. Quali sono stati gli elementi che hanno consentito all'economia americana di andare avanti? Beh, intanto una forte crescita dei consumi e degli investimenti aziendali. Perché questo può succedere? Beh, perché l'occupazione si è ripresa. 10 milioni di nuovi occupati da quando ci fu la crisi americana, 2,6 milioni di nuovi occupati soltanto nell'ultimo anno. Ecco, vorrei darvi però una chiave di lettura anche di questo dato economico, perché se è vero che anche le esportazioni sono aumentate del 7,8%, le spese della famiglia cresciute dell'1,8%, c'è un elemento però che secondo me è un effetto distorsivo, alcuni esperti lo calcolano addirittura nell'1%, e cioè la spesa governativa è aumentata di molto. La spesa governativa federale, soprattutto la componente della difesa, addirittura del 16%. Perché? Perché l'ISIS va combattuto, sono stati mesi questi in cui il presidente Obama ha dato ordine di mobilitare le truppe, di far partire le operazioni militari in Siria, bombardamenti in Siria contro l'ISIS, ma anche mobilitato le forze del Pentagono per combattere Ebola. Ecco, questa spesa conta, vi dicevo, per l'1% e non ci sarebbe stata in tempi, diciamo così, normali. Resta il fatto che l'America cresce e noi non cresciamo. Purtroppo noi soffriamo, mi duole dirlo, nel momento in cui altri paesi come la Polonia, per esempio, solo per citarne uno, o la Svezia, crescono piuttosto bene e loro non fanno parte dell'euro. Io sono un fervente sostenitore dell'euro, ma bisogna introdurre degli elementi di flessibilità che diano ai singoli stati la possibilità di rispondere alle proprie condizioni interne in modo adeguato, fino a quando non ci sarà una politica fiscale comune, perché altrimenti qualcuno se ne approfitta, e in questo caso chi se ne approfitta è la Germania. Potrei elaborare, so che ci saranno persone che dicono no, non è vero, la Germania ha fatto i suoi compiti a casa, noi non li abbiamo fatti. Sì, vero, però fino a un certo punto, perché la Germania approfitta di una condizione di vantaggio, del fatto cioè che il suo tasso di cambio è straordinariamente vantaggioso rispetto a quello degli altri paesi nel contesto euro, e approfitta del fatto che per un periodo lungo e continuato ha potuto avere dei differenziali dei tassi molto più bassi di quelli che hanno avuto le nostre aziende. Dunque, stimolo dell'economia è importante, stimolo da parte della BCE è importante, speriamo che questa sia la strada che imboccheranno sia Francoforte che a un certo punto anche la Germania, perché il modello americano per ora è stato vincente. Oh, I'm running a marathon? Oh, it's like 4.5 hours. 4:17 maybe. Sind jetzt etwa bei Kilometer 39,5? Oh yeah, lots of Italian people. Veniamo da Giovinazzo in provincia di Bari, quindi nel sud dell'Italia. È la prima volta a New York e siamo in viaggio di nozze. La maratona, abbiamo registrato un po' di partecipanti a questa gara entusiasmante che ci sarà domenica 2 novembre, tempo di maratona New York, 50.000 partecipanti tra professionisti e amatori, 2 milioni di spettatori, strade bloccate, città paralizzate. Ho avuto molte email l'anno scorso che mi dicevano: ma Platero, perché non fa anche lei la maratona? No, io purtroppo ringrazio, vorrei molto, forse mi farebbe anche bene per la linea, ma non è uno sport che fa per me, anzi devo dirvi che soffro un pochino dal fatto che poi le strade sono bloccate, la città è paralizzata, ma insomma accettiamo anche questo, perché è una grandissima festa popolare che parte dal ponte di Verrazzano a Staten Island, poi passa per Brooklyn, Williamsburg, Queens, Queensboro Bridge, Prima Avenue, si arriva a New York, poi su nel Bronx, poi si torna indietro da Harlem, Central Park sulla Quinta Strada, per poi finire, passando dalla 59esima, la Central Park South, fino a Columbus Circle, si entra nel parco dove c'è il traguardo. 42 chilometri, tempo limite per farla 8 ore, il record 2 ore e 05 di Jeffrey Mutai. Qual è la sorpresa che tutti si attendono? Beh, la vittoria di un americano. Quest'anno è possibile perché Meb Keflezighi, 39 anni, di origine di Asmara, dunque eritreo, ha vinto la maratona di Boston ad aprile, ha colto tutti di sorpresa, era arrivato quarto nel 2012 alle Olimpiadi, che è stato il miglior risultato per un americano da quando lui stesso aveva vinto la medaglia d'argento alle Olimpiadi del 2004. Dunque potrebbe essere il suo momento, ma sarà una battaglia durissima. Ci sono degli italiani che possono posizionarsi bene: Valeria Stranio, che è vice campionessa d'Europa, Danilo Goffi, 2013 è arrivato 21esimo e ha vinto la categoria dei quarantenni, il marchigiano Denis Curzi, quindi molte regioni rappresentate con corridori molto bravi. Ma la ciliegina sulla torta per noi italiani è che ci sarà una squadra da San Patrignano, manderà dei ragazzi che hanno vinto la lotta contro la droga, e per dimostrare che non soltanto non sono più tossicodipendenti, ma addirittura sono in ottima forma, correranno la maratona. Chi sono? In tutto sono 12, ma menzioniamone alcuno: Sara Carrena, 30 anni, di Cuneo, impegnata al centro medico; Tommaso D'Agostini, 36 anni, di Aversa; Alex Zampieri, 18 anni, Verona; Nico Prete, 42 anni, San Benedetto del Tronto; Emilia Crisci, 21 anni, Padova, impegnata nel laboratorio di lavorazione del cuoio. Ci sarà una gran festa questa sera alla Poltrona Frau. Lunedì vi darò i risultati. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Seguiteci su america24.com, su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. I Grateful Dead hanno deciso di celebrare il 50° anniversario del loro primo concerto con un documentario sulla loro lunga carriera. Sarà prodotto, pensate, da Martin Scorsese. Dunque a loro dedichiamo la canzone del giorno dei Grateful Dead, Track It. Sometimes the light's all shining on me. Other times I can barely see. Lately it occurs to me, what a long, strange trip it's been. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento al lunedì. Goodbye and get going. America 24.